Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta per una domenica nervi tesi, una domenica di proteste, di occasioni sciupate come quella che certamente è stata sciupata dalla Fiorentina, che non è riuscita ad arrampicarsi in testa alla classifica insieme al Napoli, e protesta per le decisioni del direttore di gara, piange per gli infortuni gravi di Gomez e Cuadrado. Poi vedremo anche tutti gli aggiornamenti. 800 24 00 24, vi dico il mio podio, il podio dei motivi per cui è valsa la pena trascorrere questo weekend calcistico incollati alla televisione. Prima di tutto per il diagonale di Higuain, perché il Napoli credo vincerà molte partite così ed è assolutamente in grado di lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Poi per la prima di Kakà, per tutti quelli che si aspettavano il talismano e sono rimasti delusi. E poi vi dico la verità anche per le parole di Ventura, Montella, Allegri, Mazzarri, Conte, Della Valle, che poi sentiremo, perché sono tornate le polemiche sugli arbitri e questo significa che è davvero cominciato il campionato. E adesso la nostra prima pagina. Sabato 14 settembre 2013, ieri, il sabato che ricorderemo come il giorno in cui la Juventus ha perso il primato 17 mesi dopo la prima fuga scudetto. Juventus fermata a San Siro e Napoli in volo sulle ali degli eredi di Cavani. Dentro per Hamsik, in area, Hamsik, prova a passare, Higuain, Gonzalo Higuain, il primo centro al San Paolo del Pipita, 1-0, 20 dalla fine, si sblocca la gara con Gonzalo Higuain. Primo sabato vero di campionato, primi verdetti, prime polemiche, quelle presunte, solo accennate, di Milano. Noi dal campo si è visto che la tocca, che l'ha presa, cioè poi non lo so, ha avuto proprio la sensazione se l'è come un po' aggiustata, tenuta lì, però ora ripeto, casomai allora se dobbiamo parlare di questo c'erano la doppia ammonizione sugli Stein che potevano rimanere in 10. Io non parlo di arbitri, aveva detto Mazzarri, come no, il nostro Oscar va a Vidal e non per la rete del pareggio, questione di stile. C'era o no, l'hai toccata o no? Sì, l'hai preso di mano. Questione di stile e di secondi anche a Torino, la palla che esce, la rondo a terra, il Milan la ributta dentro, Poli va giù, Balotelli fa 2-2 o 21 su 21 se preferite, però quella palla lì fa discutere. Tra l'altro ho chiesto io di battere velocemente perché vedevo che stavano chiamando il cambio. Non vuoi fare il cambio, devi comunque accertarti come mai un giocatore 4 minuti che è a terra, quindi voglio dire, non puoi riprendere il gioco con un giocatore che è fermo da 4 minuti steso per terra, che poi ha anche una frattura. Se ne parlerà, meno della brutta figura del Milan, di Sacchi a Bergamo, tanti anni fa, ma se ne parlerà. Sabato 14 settembre 2013, il giorno del battesimo delle polemiche per la nuova stagione. Ci sarebbero anche i verdetti del campo, il Milan ad esempio fragilissimo con il primo impercettibile Kakà, il Napoli in volo, e ve l'ho detto, secondo me non è una sorpresa, la Juve che esce dalla curva di San Siro con qualche certezza in meno. Secondo me è in queste partite, in questa serie di partite che bisogna capire la vera forza della Juventus, perché fino adesso abbiamo fatto una partita ogni settimana e hanno giocato praticamente gli undici titolari. E poi c'è la notte che viene, derby da lunghi coltelli a Genova, spie, appostamenti, tutte mimetiche, questione di stili, appunto. Rambo, sono Murdoch, felice di sentirti vivo. Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdoch. Sono io che vengo a prenderti. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati per seguirci in diretta su Twitter. Abbiamo scherzato, ma questa è la primavera domenica di sangue a livello di polemiche sui nostri campi. Vi leggo un tweet che ci è arrivato, Doriano: dopo le partite di ieri ho capito di avere due certezze, la morte e almeno un rigore a partita per il Milan. Ciao Carlo Genta, buon pomeriggio. Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Anche tu hai queste certezze? Non ho capito, scusa. Anche tu hai queste certezze, la morte e un rigore a partita per il Milan. Io ho la certezza che il 15 di agosto non me ne frega davvero niente. Posso dirti, 15 ma settembre. Che si tengano le loro polemiche, che facciano il loro pollaio. Ma va bene così, perché a uso e consumo di quelli che ci vogliono credere, Giovanni, mi sembra mi sembra la solita squalida Gazzara. Io oggi me ne sono tirato fuori e, come tu sai, mi sono dedicato a uno sport vero e alla mia vera passione, perché non ho visto nel pomeriggio neanche una partita di calcio, naturalmente quelle di ieri sì, ma nel pomeriggio non so neanche i risultati. Tu sei a Misano, hai visto Lorenzo vincere alla Wayne Rooney, ha detto primo Lorenzo, secondo Marquez, terzo Pedrosa, quarto Valentino Rossi, che quando i primi tre non sbagliano è destinato a stare ai piedi del podio. Ha fatto discutere una dichiarazione del papà di Valentino Rossi, Graziano, ha detto questa è una stagione di preparazione per la prossima, sono tanti a dire che è un po' patetico, insomma, Valentino è questo. Oggi ne abbiamo parlato anche altre volte, ma credo oggi si sia avuta la conferma, Carlo. Allora facciamo così, guarda, ti dico, Graziano Rossi è qui vicino a me, guarda un po', adesso lo facciamo ripetere a lui. Glielo facciamo ripetere. Graziano, scusa, sono in diretta con la radio, dicono che fa molto discutere la tua dichiarazione, questa è una stagione di preparazione per Valentino. Fa discutere in che senso, perché? In che senso fa discutere? Fa discutere perché molti ritengono, ti dico la verità, io per primo, che questo sia Valentino, e che se i primi tre non sbagliano, il suo posto oggi e probabilmente anche domani è ai piedi del podio, non c'è niente da preparare per la prossima stagione. È un meraviglioso viale del tramonto. Dicono che Valentino oggi vale solo il quarto posto, secondo te? In questo momento può darsi di sì, però siamo arrivati oggi ad andare forte dall'inizio come i primi due, non come Lorenzo ancora, ma come due dei primi tre, gli altri due piloti di Honda. Siamo riusciti a fare un tempo nelle prove ufficiali da partire in prima fila ed è la prima volta quest'anno che succede, e quindi è un processo di maturazione. Come se fosse una wild card Valentino, e chiaramente sta lavorando per la prossima stagione, soprattutto, ma anche forse per una delle ultime gare di questo campionato, per qualcuna delle ultime gare di questo campionato, perché Valentino, i due anni passati, l'anno scorso e anni fa, hanno cancellato tutti i dati nella sua centralina elettronica, tutti i dati che sono sotto la voce pilota di moto, cancellati completamente. Quindi riparte da zero ad un'età che non è quella dei ragazzini di 16 anni, quindi con un apprendimento anche un tantino più complicato. Aspettiamo solo qualche altro mese. Ecco. Hai capito, Giovanni? Ah, ho capito, quindi io devo concludere che Graziano Rossi, ma voglio dire, credo riporti il pensiero di Valentino, ritiene che l'anno prossimo Valentino sia un pilota che può vincere il mondiale, può stare lì con gli altri. Sì, io credo, posso risponderti, io, ma ne ho già parlato con lui, e tra l'altro qui è finita da pochissimo la conferenza stampa di Valentino Rossi, e lui questo ha detto che è ancora un anno di apprendimento, che ancora non riesce a guidare la moto come Lorenzo, che ancora Marquez e Pedrosa sono più veloci, che ancora gli manca una metà di gara, ma ha ragione Graziano, io credo che le ultime stagioni abbiano resettato Valentino Rossi, e adesso sta ritrovando lentamente, e gli anni passano per tutti, il feeling con la moto, con la pista, con le corse, con la necessità, perché di questo si tratta, di essere un top driver, o forse il top driver. Carlo, resta lì, c'è Petkovic a Sky Sport. Con tutti questi giocatori che sono qua, che meritano queste occasioni che ricevono, e sicuramente hanno anche stasera dimostrato questo. Prima di lasciarla, questo Petkovic, oggi la Lazio 3-0, malgrado la contestazione allo Tito. Carlo, rimani lì, c'è il traffico, torniamo fra un minuto. Sapete niente che ha fatto la Lazio ieri? Dice che ha vinto 3-0. In questo esercizio della Lazio non ce ne frega niente. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Cosa ne pensate anche di Valentino Rossi? Scrivono due amici al 349 238 6666. Rossi guadagna 22 milioni di euro all'anno, perché mai dovrebbe ritirarsi? Nessuno ha detto che deve ritirarsi, però forse il suo valore oggi è questo, io almeno la penso così, lo è oggi e lo sarà probabilmente domani. E poi c'è un altro amico che chiede, si è sempre affermato che Valentino fosse uno splendido collaudatore, possiamo ancora dire questo, Carlo? possiamo dire che non, i soldi non c'entrano nulla. Possiamo dire che oggi Valentino Rossi non è certamente, ma lo si vede in pista. A livello di Lorenzo, che pure guida la stessa moto, non è a livello di Marquez, che probabilmente, anzi che sono certo vincerà il mondiale, che è un pilota del tutto sui generis, è il primo probabilmente di una nuova specie. Valentino le prende anche da Pedrosa ed è a oggi un pilota, io mi rifiuto di pensare che Valentino Rossi valga meno di Pedrosa. Certamente, sai, per uno così non deve essere neanche facile prenderle da tutti, eh? Quindi ci vuole, io credo, un grande coraggio. I soldi credo non c'entrino nulla, perché se domani Valentino dovesse scendere dalla moto guadagnerebbe comunque gli stessi soldi, tra sponsor, partecipazione, è un personaggio a tutto tondo, e io credo che nessuno voglia, almeno in questo ambiente, in questo ambito e dal punto di vista del circo del moto mondiale, voglia pensare di rinunciare oggi a Valentino Rossi. Poi sì, tornerà al mondiale, non lo so. Di sicuro anche da ritirato non avrebbe il problema della quarta settimana, se mi permetti una battuta in questo momento. Il suo è il problema del quarto posto. Grazie Carlo. A te Giovanni, grazie a tutti. Ciao Carlo. Ancora Petkovic, un flash dall'Olimpico. Andiamo. Iniziare una nuova avventura in modo giusto, e per questo mi concentro solo sulla Legia e cerchiamo prima di riposare e dopo dare tutto per vincere la partita contro la Legia. Legia Varsavia che aspetta in Europa League la Lazio. Lazio che oggi ha chiuso nel primo tempo la sua contesa contro il Chievo, ha sofferto forse anche più di quanto dica il 3-0 finale. Però detto questo, la Lazio si trova lì alle spalle delle primissime, come capita costantemente da un paio di stagioni a questa parte. 8-0-0, 24-0-0, 24, il gol di Muntari è buono, il rigore su Poli netto, altro che ironie sui rigori al Milan, non capisco la credine nei confronti di questa squadra. Luca da Rimini, il gol di Muntari è buono, il rigore su Poli netto, si sta discutendo di altro e la battuta non l'ho fatta io. Comunque ditemi che cosa ne pensate. 8-0-0 24 0-0 24. A proposito di Lazio, andiamo da Marco Montanari all'Olimpico. Ciao Marco, buon pomeriggio. Eccoci, buon pomeriggio dallo stadio Olimpico. Abbiamo sentito Petkovic, Lazio 7 punti alle spalle delle primissime. Ancora oggi però mi sembra di aver registrato contestazione a Lotito, che prima della partita era abbastanza scocciato. Che cosa succede? Beh sì, la partita si è aperta con questa contestazione, un corteo che è partito da Ponte Milvio per arrivare allo stadio Olimpico, dove i tifosi però della curva nord non sono entrati fino al quindicesimo circa del primo tempo, e diciamo forse questa è l'aspetto negativo di una giornata che comunque ha visto la Lazio portare a casa 3 punti importanti. E con questo noi siamo in compagnia di Guglielmo Buccheri della Stampa, vorrei coinvolgere anche lui per capire un po' questa situazione un po' anomala. Sì, buonasera a tutti. È una situazione un po' anomala che però purtroppo si verifica ormai da qualche tempo ogni volta che termina il calciomercato, perché sappiamo un po' tutti quelle che sono quella che è la filosofia del presidente della Lazio Lotito. Il tifoso dimostra regolarmente, appunto, alla fine di ogni sessione di mercato che non è mai soddisfatto di quella che poi è il risultato della campagna rafforzamenti. Però bisogna anche, insomma, sottolineare due aspetti: una contestazione annunciata e fortunatamente, se così possiamo dire, comunque mantenuta entro determinati limiti, e soprattutto bisogna anche però allargare un po' il ragionamento e insomma andare anche a vedere quello che è stato il lavoro di Lotito in questi anni, tra alti e bassi. Comunque alla fine è stato un presidente ed è una gestione che ha portato anche parecchie soddisfazioni e anche diversi trofei alla formazione biancoceleste, nonostante questa, appunto, filosofia, tra virgolette, se così la vogliamo chiamare, del presidente della Lazio, che oramai insomma è abbastanza nota in questi 9 anni di gestione. Sembra quasi una frattura insanabile questa, no? Come ricordavi, è una contestazione che va avanti da diversi anni. Cosa fare, secondo te? Ma io credo che tanto Lotito, appunto, ha le idee ben chiare, quindi continuerà a portare avanti questo tipo di mettere in pratica quello che poi sono le sue idee sul mercato, e il tifoso dal canto suo continuerà, insomma, tra alti e bassi a manifestare la propria disaffezione, anche se poi anche qui bisogna fare un aggiornamento più ampio, perché come ricordavi tu giustamente è la curva che ha contestato, anche se è la parte più calda di ogni tifoseria, però il resto dello stadio fin dal primo minuto ha cercato di sostenere la squadra, come fa poi in ogni fine settimana. Sì, Marco, Marco, effettivamente è abbastanza incomprensibile. Poi ci sono questioni ambientali, Lotito ha avuto modo di spiegarlo anche negli anni scorsi, il suo è stato un impatto complicato con la piazza della tifoseria della Lazio, che è una piazza ingombrante dal punto di vista delle pressioni che è capace di mettere sulla società. Mi interessa capire, visto questo inizio di stagione, quale può essere secondo te, secondo il tuo ospite, la prospettiva di questa squadra in questo campionato? La Lazio che è chiamata comunque a, a confermare quanto di buono fatto nell'inizio della scorsa stagione, che si è chiusa poi con la vittoria della, della Coppa Italia. Quindi volgo anche Guglielmo per capire un po' quali sono le ambizioni della squadra di Pektovic. Ma io credo, se posso fare una brevissima premessa, che poi andando un po' a vedere anche quello che è lo storico, chiamiamolo così, tra virgolette, del campionato italiano, nell'anno del mondiale, cioè l'anno che porta al mondiale, ci sono sempre delle sorprese, bene o male. Io mi riferisco naturalmente non alla possibilità di vincere lo scudetto per quanto riguarda la formazione della Lazio in, in particolare, perché appunto, come insomma, mi unisco al coro un po' di tutti, ritengo la Juventus comunque una squadra ancora che ha le maggiori, gode delle maggiori credenziali. Però ecco, per quanto riguarda poi le posizioni più nobili del, del campionato, io mi aspetto determinate diverse sorprese alla fine della stagione. La Lazio, bisogna vedere un pochino soprattutto Pektovic cosa sarà, cosa riuscirà a, tra virgolette, reinventare, perché il primo anno è stato un po' insomma una sorpresa per tutti, il lavoro del tecnico laziale. Questo è il vero primo anno, secondo me, del suo lavoro, perché sappiamo quello che può dare, però è conosciuta naturalmente anche dai colleghi e dalle formazioni avversarie. Quindi io credo che molto dipenderà dal, dalla mano del, se così posso dire, del, del tecnico laziale, anche perché tra l'altro c'è un'altra incognita nella Lazio, perché molti elementi più o meno nuovi al momento non hanno avuto modo di esprimersi, sì, no? Dovrà... ci sono diversi giocatori arrivati quest'anno che però per vari motivi, soprattutto fisici, ancora non hanno potuto dare il loro apporto. Quindi secondo me la Lazio gli metterei davanti un grossissimo punto interrogativo, perché è chiaro, la ritengo sempre una squadra tra i primi che può insomma oscillare dal terzo, quarto, quinto, sesto posto, però se Pektovic riuscirà a inventarsi qualcosa e se i nuovi arrivati riusciranno a inserirsi in un brevissimo tempo, non si esclude anche determinate sorprese, tra cui ci potrebbe essere anche la Lazio. Sì, grazie Marco, dovrà metterci certamente del suo Pektovic e poi vediamo com'è questa Lazio. Grazie a Marco Montanari. A voi. Ciao Marco, Sky Sport, c'è Pioli da Udine. Poi Diego ha detto che prima o poi succederà, capiterà. Oggi ci siamo andati molto vicino, ma stiamo parlando innanzitutto di un collega molto molto bravo, tra i più preparati, e di un avversario importante, forte, quindi non sarà mai facile. Credo che oggi però il Bologna sia stata all'altezza della situazione. Bologna che è andato vicinissimo davvero a sbancare Udine. Hanno segnato due vecchietti, Diamanti e Di Natale, due di quelli che possono legittimamente sognare di andare in Brasile a giugno a giocarsi il mondiale. Vi abbiamo detto, è stata una domenica di polemiche che ha seguito un sabato comunque caldo. C'è stato Torino, ci sono state le parole di Conte e di Mazzarri da San Siro. Oggi, al termine di Fiorentina-Cagliari, c'è stato questo sfogo di Vincenzo Montella. Ci sta dal campo di sbagliare, ma io non accetto la diversità di comportamento su determinati giocatori o rispetto ad altri, insomma, nel senso che ci vuole uniformità. Se un giocatore viene buttato fuori perché al 90° o giù di lì, a torto a ragione, pensa di aver subito un torto e ti dice senza gesticolare che cazzo fai, così come sembra, scusate la volgarità, è quello che è successo, ma uomo di campo ci può stare. Si vedono tantissime immagini che ci sono giocatori che sul muso gesticolando dicono cose magari anche più gravi. Io questa cosa non riesco ad accettarla, sono anche molto amareggiato di questo, deluso, perché sono costretto a dirlo in televisione, ma ho bisogno di sfogarmi. Uniformità, ne parleremo per tutto l'anno, l'impressione. 800 24 00 24. Luca da Rimini, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Prego. Il Capuano, e allora Montella non ha ragione di più, perché voglio dire, si vedono certi labiali. Domenica scorsa un giocatore di colore del Milan ne ha dette di cotte di crude, come disse tante cose belle forbite, Totti in faccia all'arbitro a 2 centimetri, uno perché dice un'imprecazione, non è un'offesa né un'ingiuria. Io ho fatto l'arbitro e non è un'offesa né un'ingiuria, né una frase di dissenso, insomma, perché poi in Italia le regole ci sono, ma sono per essere calpestate. perché due proprietà, dico due proprietà, non due società, due proprietà, una di Milano e una di Torino, non si sa con quali poteri, con quali affari, con quali con quali risorse hanno fatto squadra, hanno comprato giocatori, hanno comprato stadi, sì, e poi mettono e si, poi si sa con quali, perché adesso mi sembra non ci sia nulla di illecito in quello che stanno facendo dal punto di vista societario la Juventus, il Milan e tutte le altre. Luca, mi sembra che questo sia un discorso molto più ampio e che non condivido, mentre condivido il riferimento di Montella all'uniformità arbitrale, alla difficoltà di leggere con lo stesso metro di giudizio episodi anche simili. Luca, poi io non andrei oltre. Mario da Milano, buon pomeriggio. Sì, ciao. Prego. Guarda, volevo tirare due giudizi sintetici. Se parliamo di calcio giocato, sappiamo che è uno sport particolare, calcio, e quindi bisogna aspettare sempre il 90esimo, perché in 4 minuti può succedere di tutto, riferendomi a quello che è successo ieri a Torino, le polemiche. Per noi milanisti basta pensare a quello che ci è successo contro il Liverpool nella finale di Istanbul, no? La partita l'abbiamo fatta noi e alla fine hanno vinto loro, e ieri è successa la stessa cosa a Torino con un pareggio che sicuramente non meritavano, e quindi noi abbiamo avuto, diciamo, fortuna. Riguardo agli aiuti, io vorrei solo che si ricordassero non solo gli episodi favorevoli dell'anno scorso, di cui si è tanto parlato, ma anche i tanti episodi che ci hanno sfavorito anche l'anno scorso. Parlo due su tutti, in uno dei derby, e anche un gol annullato di Montolivo che era buono tutta la vita. Sì, e c'è un gol evidentemente, c'è un derby evidentemente condizionato dagli errori arbitrali contro il Milan l'anno prossimo. E anche quello che è successo a Torino. Non c'è nessun problema a dirlo, Mario, però io ho l'impressione che su ieri la polemica di Ventura e, se vogliamo, anche le discussioni da bar di questa mattina non fossero tanto sull'evidenza o meno del rigore su Poli, secondo me solare, e idem vale per il gol di Muntari. Quello di Balotelli era fuori gioco attivo negli anni 80, è una ventina d'anni che quella regola è cambiata. Si sta discutendo di altro, poi ne parleremo anche con Maurizio Crosetti, perché il parallelo con Bergamo non l'ho fatto io, e con questo rispondo ad alcuni amici al 349-238-6666, ma è qualcosa che è venuto in mente a tanti, e qualcuno l'ha anche scritto oggi, soprattutto sentendo Allegri dire: sono stato io, visto che avevano pronto il cambio, a chiedere di accelerare la rimessa. Ne parliamo però, 800 24 00 24, ci fermiamo, pubblicità meteo. Siamo primi in classifica, siamo lassù, primi in classifica, e questa volta nessuno ci può prendere, nessuno ci può prendere, vai così Napoli! Tutti convocati. Non lo so, allora noi siamo destinati proprio a piangere, a stare sempre male, a stare come se fossimo obbligati, capito, a stare male. Dice, come, i medici si divertono pure, chi su Napoli riesce agli primi in classifica, oppure, e invece no, viene che lei ogni tanto viene pure qualche soddisfazione. Accelera Insigne, grande assist Gemaili, il tocco geniale Callejon, tre partite, tre gol, azione stupenda, 2-0 Napoli. Ma non lo so, perché non mi chiedere com'è che io sento che quest'anno un scudetto, non voglio neanche dire questa parola perché mi fa impressione, questo è l'anno buono, cioè. Io sento che questo può essere l'anno buono per il Napoli, però l'ho detto un mese fa. Oggi scrive qualcosa di simile, anche se non si sbilancia così tanto, Maurizio Crosetti, prima firma di Repubblica. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Eccoci, buongiorno a voi. Senti un po' in fondo che magari... Insomma, sì, che vi siete persi, la famosa... al cimitero di Napoli, quando persino ai morti venne rimproverato il non poter così partecipare alla festa dell'ultimo scudetto di Maradona. Beh, insomma, sì, è una parola grande. Siamo solo all'inizio, 15 settembre, non scherziamo. Sì, per carità, perché, però certamente questa è una squadra gli fa venire un sacco di curiosità, fa divertire, è gasatissima, insomma è partita proprio bene, è proprio napoletana questo Napoli. Ma poi io credo che la partita di ieri con l'Atalanta sia un po' il paradigma di quello che sarà la stagione del Napoli, ne vincerà tonnellate di partite così, sofferte, incarognite, poi davanti a Higuain, a Caleon, ha tantissima qualità e secondo me sarà certamente un'avversaria fino in fondo per la Juventus, che mi pare di aver capito leggendoti oggi su Repubblica, e lo sottoscrivo, tu vedi un po' imborghesita in questo inizio di stagione. Ma ieri sera ha avuto delle pause che forse l'anno scorso, che poi sono pochi mesi fa, non si sarebbe concessa. È vero che siamo all'inizio, anche lei non può essere già in forma, però l'ho vista meno furiosa, meno rabbiosa, meno carnivora. Questo è strano, anche se poi alla fine appena è stata azzannata dall'Inter l'appetito l'è tornato immediatamente, in due minuti ha finito gli avanzi, insomma si è mangiata anche le croste del pane. Sì, però, a momenti arrivava anche al dolce, per carità, credo immeritato, però che non può concedere, non è fatta per concedere nulla a nessuno, e questo richiede un dispendio pazzesco. E Conte alla fine, quando ogni tanto mostra questo mal di pancia, lui rivela secondo me soprattutto questa consapevolezza, cioè lui sa che al massimo non si può andare sempre su tutte le curve del percorso, del circuito, su tutti i rettilinei. Se la Juve non spinge sempre al massimo è un po' meno Juve e diventa anche una squadra quasi normale. Ieri sera è stata una forte squadra normale, non ha riempito gli occhi se non in pochi momenti. Sì, non la Juve che ci ha abituato a essere nelle ultime due stagioni. Io l'ho detto un mese fa, lo ripeto a maggior ragione adesso, in tanti hanno sottovalutato l'impatto di Higuain su questo campionato. Nella mia griglia iniziale di stagione io ho messo il Napoli davanti alla Juventus, seppure di un'incollatura, seppure arriveranno probabilmente all'ultima curva, non so, ditemi anche voi che cosa ne pensate. 800 24 00 24. Maurizio, ti faccio sentire un flash invece di Guidolin da Sky Sport. Guidolin, può arrivare il mondiale, e poi se insomma ha mai pensato a un futuro da CT? No, io ho detto, parlando di Totò, che se farà un campionato sulla falsariga degli ultimi tre, parlo dei miei, dei campionati che ha fatto con noi, ma anche l'anno prima, perché l'anno prima che io arrivassi aveva fatto 29 gol. Io credo che un posto ai mondiali non glielo dovrebbe togliere nessuno. E quindi io spero per lui che faccia tutti questi gol, che faccia così bene per noi e così anche per la sua, quella che sarebbe per lui una grandissima soddisfazione di andare a fare i mondiali in Brasile. E per quello che riguarda me, non so cosa dire, una nazionale, parlo in termini generali, una nazionale mi piacerebbe allenarla, perché mi sta è un facendo lavoro che, un lunghissimo giro di parole per dire che si siederebbe come Maurizio Crosetti sulla panchina che è di Prandelli fino a giugno, poi sarà di qualcun altro, però mi sembra che più o meno lo standard sia quello della risposta di tutti in questi giorni, certo, in cui si è parlato del futuro, ma figuriamoci, io non sono, però certo che mi piacerebbe. A proposito di Inter Juventus, Maurizio, tu lo scrivono in pochi, e secondo me la questione diventerà d'attualità tra 24-48 ore. Ieri a San Siro purtroppo ancora i soliti bu verso Pogba e Asamoah. Io dico, avremo notizie perché sono cambiate le regole, quindi attenzione, perché l'Inter rischia, al di là del giudizio etico su quello che è successo ieri, che affido a te. C'è poco da fare, siamo sempre lì, sono tutte repliche, anche se va detto, per dire, esattezza di cronaca, che questi cori per fortuna sono stati abbastanza circoscritti. Sì, ma però, non conta, insomma, più nulla, Maurizio, con le nuove regole, non conta più nulla. Ah, non c'è il duometro, no, certamente. No, ma non conta nemmeno più con l'esimenti, i messaggi, hanno cancellato tutto. Assolutamente, non, quindi attenzione. Non si deve, che sia un secondo, un buco dura un secondo o un'ora, e non si può, non si deve, non si può, quindi mi pare che il pugno duro sia stato applicato, specialmente con le chiusure delle curve, no, della Lazio e della Roma. Adesso se continuano queste manifestazioni terribili, vedremo se la coerenza di questa tolleranza zero, come si dice, verrà applicata. E non, siamo sempre a parlare delle stesse cose, però, e questo è terribile, no? Che siamo sempre a parlare delle stesse cose. Sì, e attenzione, io lo ripeto, sono cambiate le regole, e quindi tutte quelle belle cose, i messaggi, la lotta preventiva, non serve più per provare a graduare le sanzioni nei confronti dei club. Quindi se ieri qualcuno ha scritto sul referto quello che è successo a San Siro, ho l'impressione che domani pomeriggio avremo da discutere molto di questo argomento, altrimenti che cancellino pure questa norma. Io lo dico, mi sbilancio, è una norma stupida perché è troppo rigida, consegna le società in mano agli ultra, perché non c'è più gradualità, e non c'è più possibilità. Pochi, cioè, ripeto, sì, non voglio che sembri una tematica. Poche decine, mai. No, assolutamente. Pochi ieri sera davvero rispetto ad altre volte, ma quanto basta nel dosaggio delle nuove regole, no? E quindi... noi lo diciamo perché mi sembra che pochi l'abbiano sottolineato oggi. Io ho trovato un cenno su Repubblica, l'hai scritto tu. No, ma poi in realtà lo speaker che era allo stadio questo non lo sa. Ha ripetuto molte volte l'avviso, insomma, che le discriminazioni razziali, etniche, religiose verranno punite, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, e poi vabbè, anche i laser, è quella un'altra storia. Quindi, insomma, non siamo i soliti di Repubblica che fanno i politicamente corretti, no, manco per niente. No, assolutamente. Cosa pensi invece di quello che è successo a proposito di politicamente corretto ieri sera a Torino, quella rimessa accelerata? Io ti dico la mia, niente di scandaloso sul fatto che il Milan acceleri, ho trovato inaccettabile che un quarto uomo si faccia battere una rimessa davanti agli occhi con il cambio già pronto, chiamato, non lo so. Sì, infatti secondo me sono d'accordo, il momento debole di quella scena è proprio il quarto uomo, è proprio perché il Milan fa il mestiere suo, vabbè, a parte invertite. Sta perdendo, ci prova, mancano non è pochi secondi. Gol di Bergamo, che non restituisci, fai gol e vinci il campionato, non siamo a quei livelli lì, però insomma... Alla fine il Toro è stato come spesso gli accade, una specie di pollaio, insomma, no? Nel senso dei polli, sono stati davvero polli e un po' kamikaze nel riuscire a rovinarsi un risultato che era già bello rotondo, perché il rigore c'era, il gol sono stati sfortunati e poi la dinamica di quell'episodio, come hai detto tu, non è chiarissima, però insomma il Milan che doveva fare? Sì, quell'atteggiamento del quarto uomo richiama secondo me alle parole oggi di Montella, non so se le hai sentite, questo riferimento alla difficoltà di interpretare in maniera uniforme atteggiamenti ed episodi, vale per le proteste, vale per gli insulti che scappano ai giocatori e agli arbitri, vale secondo me anche per il rispetto per una panchina che chiama un cambio, è accaduto ieri sera, evidentemente io non voglio parlare di sudditanza, però uniformità che non c'è, questo sì. Ma la moltiplicazione delle figure arbitrali, perché insomma tra gli arbitri quarto uomo, gli arbitri di area, e gli assistenti, l'arbitro principale, insomma, e aumentando questo numero aumenta anche potenzialmente la differenza di applicazione di una norma, quindi l'uniformità diventa più difficile quando la devono applicare in 100 piuttosto che in 10, no? È ovvio questo, e quindi secondo me anche questo dato banalmente numerico rende più difficile mettere d'accordo tanti occhi diversi e tanti modi di fare, di comportarsi diversi, con la sudditanza che quella rimane, sicuro. E con questo non ci piace inseguire quanti fra i tifosi in questo momento stanno inondando internet con questo parallelismo tra il rigore dato al Milan ieri sera al 96esimo e il rigore negato alla Fiorentina al 92esimo, che avrebbe potuto regalare i 3 punti alla Fiorentina e che ha fatto molto arrabbiare Della Valle, che ha detto De Marco ha avuto quantomeno una giornata sfortunata. È un peccato, c'è però chi ha tirato in ballo i veleni della volata dell'anno scorso. Grazie Maurizio Crosetti. A voi, grazie a voi, buon lavoro. Grazie Maurizio Crosetti. 800 24 00 24 per dirci che cosa ne pensate di Juventus-Inter, del Napoli in testa alla classifica, della rimessa di Torino, dello sfogo di Montella, di quello che volete, perché poi parleremo anche di altro, di pallacanestro, di Formula 1. C'è già Alessandro da Siena, prima però ci fermiamo per il traffico. Bisogna avere il sangue freddo di un crotalo. Balotelli contro Padelli. Gol! Coda! Timbro! Firma! Segno! Coda! Timbro! Firma! Segno! Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Luca chiede qual è il senso dei burazzisti, dei tifosi dell'Inter, visto che da 15 anni hanno squadre per metà composte da giocatori di colore. Io non so qual è il senso, però ieri ci sono stati, se sono stati annotati, come credo, sul referto dall'arbitro, dal quarto uomo, da uno chiunque degli ispettori della Lega presenti a San Siro, ho l'impressione che potranno portare a una sanzione dura nei confronti dell'Inter. Noi ve lo diciamo oggi, poi domani vedremo. E poi ancora il paragone con Bergamo è assurdo, là il Milan non restituì la palla, ieri si tratta solo di una rimessa accelerata. Di cosa stiamo parlando, Gino? Stiamo parlando comunque, secondo me, di un episodio non bello in cui, l'ho detto, il Milan è solo parzialmente responsabile. Poi sentiremo anche Ventura, la sua lettura completa di quello che è accaduto ieri. Alessandro da Siena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Allora, io chiamo da Siena e quindi io sono un grande appassionato di basket. Sì, dopo avremo Danilo Gallinari per parlare dell'Italia e l'Europeo. Il calcio e del rugby. Prego. Allora, quello che è successo a Torino non sarebbe mai successo in una partita di basket o di rugby. Quel successo a Torino è vomitevole affiancarlo alla parola sport. E vi spiego perché. Semplicissimo. Prima davamo colpa agli arbitri durante gli sbagli. Poi, quando non sbagliavano gli arbitri, sbagliavano i guardialine. Allora abbiamo munito arbitri e guardialine di autoparlanti. Va bene, quando non sbagliano loro, cerchiamo di dare la colpa al quarto uomo. La colpa non è né degli arbitri, né del quarto uomo, né dei guardialine, ma di squadre che si chiamano Milan o Juve, in questo momento loro due, ma più il Milan storicamente da sempre, che dettano la sudditanza psicologica verso gli arbitri. A Siena, nel Medioevo, purtroppo, quando dovevano essere applicate certe leggi, i capitani di giustizia non erano di Siena, ma venivano chiamati da altri. Sì, ma non mi dica Alessandro che lei che lei vuole gli arbitri stranieri. Sì, io vorrei persone, non arbitri stranieri, persone che giudicassero quello che fanno gli arbitri nostri in campo, perché quello che fanno gli arbitri nostri in campo davanti a certe squadre è da rabbrividire. A parte invertite, il Torino avrebbe ribattuto il fallo laterale. Ma questo lei lo sa meglio di me. Sì, ma io l'ho detto, e l'ha detto anche Maurizio Crosetti, l'anello debole di quella scena è il quarto uomo che si fa effettuare la rimessa davanti agli occhi quando c'è un cambio pronto. Secondo me il Milan fa il suo lavoro, mancano 30 secondi alla fine, sta perdendo, di cosa stiamo parlando? Sì, poteva fare il bel gesto con un uomo a terra e con un cambio chiamato, ma l'ha detto Allegri, l'avete sentito, avevano già chiamato il cambio e sono stato io a chiedere ai miei di affrettare la rimessa per non perdere l'ultima occasione. È anche così che si pareggiano le partite. Andrea da Milano, buon pomeriggio. Salve. Prego. Se mi permette, su due argomenti. Il secondo si riallaccia un po' all'intervento di adesso. Il primo argomento, Juve-Napoli, ha fatto questa domanda. Sì. Faccio un discorso di massima. Le 5-6 squadre forti in Italia esistono e sono le solite. La differenza la fa chi ha i fuori classe, sostanzialmente. Fuori classe ce li ha sia il Napoli che la Juve. Ho la sensazione che ce n'abbia ancora un po' di più la Juve. Si è visto ieri sera, Vidal ha fatto una partita opaca, però poi è stato decisivo. Cioè, fuori classe è il giocatore che diventa decisivo nella partita. A livello tecnico, uguale agli altri, diciamo, Pogba. Sì, certamente a metà campo la Juve è piena di qualità, a livello europeo. Sono quelli decisivi, non a caso Hamsik ha fatto 4 gol. E non solo italiano. È un giocatore decisivo. E per cui, secondo me, la differenza la fa il fuoriclasse, cioè il giocatore decisivo. E la Juve ho la sensazione che ne abbia un filino di più. Il secondo argomento, invece, che volevo chiedere, si rilascia al discorso di prima e volevo la sua opinione su questo. Non tanto sul fatto che da 30 anni si discute sulle sudditanze psicologiche o meno, sulle grandi squadre. Da 30 anni è anche qualcosina di più, anche perché qualcosina di più, affondiamo esatto. Almeno però, negli anni 60. Si è perso un po', siccome il calcio, lei sa meglio di me, è diventato praticamente quasi esclusivamente fisico, molto veloce, si fa, secondo me, gli arbitri non sono ancora pronti a gestire bene le ammonizioni sui famosi falli tattici e soprattutto diciamo i falli tattici, chiamati tattici nel senso che c'è chi interrompe un'azione, chi è saltato e cerca di anche a centrocampo, anche sulla tre quarti, non dico necessariamente vicino all'area. ieri sera, oppure per esempio ieri c'è stato un caso eclatante, Vucic ha calciato la palla a gioco fermo, sì, però e io, non è stato ammonito, però io dico, Andrea, non si può nemmeno, era ammonito, cioè sì, questo è il problema. Può essere anche se secondo me non sempre così, poi non si può nemmeno applicare alla lettera il regolamento. Mi sembra ad esempio che ieri la lettura migliore del fatto di Lichtsteiner, che ha rischiato il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione, l'abbia data alla fine Conte, che ha detto: sono stato calciatore, so che per quel tipo di falli al terzo tentativo poi l'arbitro ti butta fuori, quindi ho preferito togliere io Lichtsteiner. Secondo me Lichtsteiner non era da espellere dopo il secondo intervento, certo ha rischiato, stiamo parlando di qualcosa di diverso rispetto a quello accaduto però un anno fa a Torino. Saluto Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport, ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Per capire che cosa sta succedendo al Milan, leggo 8-9 indisponibili per infortunio contro il Celtic in Champions League, gli ultimi due sono Poli e Montolivo, c'entra qualcosa la preparazione accelerata quest'estate per il preliminare di Champions? Ma io non credo che c'entri la preparazione accelerata, se voi andate a controllare le statistiche scoprirete che anche l'anno scorso all'inizio della stagione il Milan aveva tantissimi infortunati e Galliani addirittura lanciò un allarme preoccupandosi non poco della faccenda, quindi non credo che sia una questione di preparazione accelerata quanto di preparazione vera e propria. Cacà Malino ieri, ho visto le pagelle della Gazzetta e degli altri giornali, va sulla media del 5. Gli è andata bene, poteva prendere anche 4. Mi sembra che sia stato circondato di troppe attese, soprattutto nel mondo Milan, un giocatore che ha fatto 9 partite intere negli ultimi 3 anni, questo può essere? Io l'ho scritto quando è arrivato, l'ho ribadito ieri, non è più il Kakà di 4 anni fa, si sapeva, d'altronde io credo che il Milan avesse bisogno di un altro tipo di giocatore, hanno fatto quella scelta. E credo che il Milan di Torino sia anche figlio di quella scelta, perché se tu hai in squadra Robinho, El Shaarawy, Balotelli, compri Matri e invece di rafforzare la difesa vai ancora a comprare un trequartista o un fantasista, un secondo attaccante come Kakà, va bene, allora poi dopo però vai anche incontro ai 2-0 fuori casa che riesci a rimediare all'ultimo momento. Sì, Milan che ha bisogno certamente di una sistemazione. Grazie ad Andrea Schianchi. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Schianchi della Gazzetta. Noi ci fermiamo adesso perché c'è la pausa per il GR. Io vi ricordo ancora il nostro numero per intervenire: 800 24 00 24. E Buffon con il gol di Muntari, dove lo mettete? Per cui Buffon ha fatto bene, il Milan no, scrive un amico. Secondo me hanno fatto male tutti e due, GR. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. C'è chi scrive: sono convinto che il campionato abbia già le prime 3 squadre scritte, podio deciso dei luoghi giusti e gli arbitri stanno solo applicando quello che è stato imposto. Renzo d'Arezzo. Spero davvero di no. 800 24 00 24, ditemi anche che cosa ne pensate. Saluto Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta. Buon pomeriggio, anzi buonasera mister Colantuono. Allora, c'è qualche problema di collegamento, proviamo ad agganciare nuovamente Stefano Colantuono. Intanto andiamo a ripercorrere le emozioni di questa domenica. Montella furibondo, c'è stato il terzo tempo, sono state le strette di mano, ma Montella è inviperito con il direttore di gara, inviperito, è andato muso a muso. Il passaggio di Onasi per Lulic, in area di rigore, Lulic, 3-0 Lazio, Lulic al 42esimo minuto. Palla portata via da Magnanelli, non c'è fallo, allora Alfredo mette il pallone in aria, Martigno, vantaggio Verona, ha segnato Martigno, 1-0. Assist per Di Natale, davanti al portiere a rete, Totò Di Natale 1-1, festeggia la sua 300esima con l'Udinese in Serie A. tutti convocati. Buon pomeriggio Colantuono. Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo. Ha seguito oggi le partite? Sì, sì, le ho seguite. Ah, primi nervi di stagione, noi abbiamo parlato di questo, soprattutto nella prima ora, legando con un filo lo sfogo di Montella, le parole ieri di Ventura, tutte queste discussioni sull'uniformità, che secondo me è qualcosa che è impossibile raggiungere, e non mi voglio iscrivere a quelli che ci vedono una volontà. Io guardi, gli sfogli non li ho seguiti, ho seguito solo le partite, poi le interviste onestamente non le ho viste. È chiaro che in ogni partita c'è sempre qualcosa da recriminare, se vogliamo andare a vedere, quindi è normale che dopo partita, anche a causa dello stress e comunque della tensione, dell'adrenalina che accumuli nei 90 minuti, a volte possa portarti a dire o a fare anche delle considerazioni. Quindi no, non mi sento di giudicarle, non lo so, anche perché non le ho seguite, però insomma questo sì, fa un po' parte. La rabbia della Fiorentina gira tutto intorno all'interpretazione che ha dato il signor De Marco delle parole "che cazzo fai" che Pizarro gli ha detto a fine partita. Ha detto Della Valle è stato espulso Pizarro per l'uso di tale parola, e quindi da oggi, se questa parola è considerata gravissima, mi aspetto per tutti lo stesso metro di giudizio e le stesse sanzioni per le altre squadre. Cos'è, gravissimo o no in un campo di Serie A? Non lo so, sai, io pensavo che i reclami della Fiorentina sì, ce l'avevano anche per il rigore, ce l'avevano anche per il rigore. Beh, sai, non lo so, quello a volte può dipendere anche dalla suscettibilità dell'arbitro. È chiaro che è comunque un linguaggio che normalmente non si potrebbe usare con l'arbitro, però non è neanche una cosa, non è neanche un'offesa grave, insomma. Io credo che a volte ci sono, ora non lo so perché in campo non ci sono più da parecchi anni, sono un po' più defilato, però posso anche pensare che magari qualche arbitro a volte su frasi del genere possa anche passarci sopra, specialmente se quel giocatore c'ha un po' più di conoscenza diretta, a volte invece magari no. Comunque è una frase che forse all'arbitro non è meglio non rivolgere, sì, anche se non è gravissima, secondo me. No, anche perché in realtà non è un insulto diretto. No, infatti non è un insulto diretto. Cose che purtroppo siamo abituati a vedere nei labiali, a leggere. Era magari meglio dire "che cavolo fai tu". Sarebbe stata forse meno. Però Pizarro è anche straniero, capito? Allora magari quando si arriva in Italia, anche se Pizarro è tanti anni, sì, in Italia. Pizarro è ormai italiano ormai italiano di adozione. Però insomma le parole meno concesse si imparano con più facilità. Comunque gireremo intorno a questa interpretazione. È o no da cartellino rosso l'espressione "che cazzo fai" detta un arbitro? Vedremo. C'è un po' di rammarico con Colantuono per aver resistito più di un'ora al Napoli e poi aver perso la partita ieri sera? Sì, c'è rammarico perché tutto sommato, al di là della spinta del Napoli, ma ci aspettavamo una partita del genere, chiaramente. Avevamo contenuto bene, con ordine, senza rischiare tantissimo, e anzi, in alcune occasioni riproponendoci, e in tante altre sbagliando proprio la ripartenza che poteva permetterci di essere più pericolosi. Una buona partita, attenti, molto concentrati. Poi è normale che a volte, io lo dicevo in sede di presentazione, in conferenza stampa, a volte quando giochi contro queste squadre non basta neanche la partita perfetta, perché poi hanno dei giocatori che chiaramente con un colpo, con una giocata, riescono ad alterare gli equilibri, e così è stato. Io credo che noi, nell'unica sbavatura concessa nei 70 minuti, abbiamo subito gol. Poi dopo pochi minuti c'è stata l'espulsione, per cui la partita si è conclusa al 71esimo, insomma, dopo l'1-0. Sì, poi Napoli ha giocatori come Higuaín, come Callejon, come Hamsik, che entra dalla panchina. E in 20 minuti fa la differenza. Mister, le chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi ritorniamo da lei. Traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siamo tutti d'accordo con quello che ha scritto l'ascoltatore di Arezzo: il campionato e la classifica sono decisi in altri luoghi, per cortesia, ci sono anche semplicemente gli errori e la difficoltà di riuscire ad applicare un po' di uniformità, anche la sudditanza, è inutile negarlo. Siamo con Stefano Colantuono, allenatore dell'Atalanta. Questo Napoli è da scudetto? Io voto sì, lo dico da un mese, sottovalutato questo Napoli. mister? Ma sicuramente sì, è una squadra che ha dimostrato, insomma, di poter competere così come ha fatto l'anno scorso, perché io credo che al di là della classifica finale, poi comunque il Napoli non va dimenticato che in questi anni con Mazzarri ha fatto cose molto molto importanti. Quest'anno, tra le altre cose, credo abbia a disposizione una rosa ancora più completa e quindi può probabilmente avvicinarsi ancora di più a quella che secondo me comunque è ancora la squadra più forte della Juventus. Sì, secondo me quello che non viene adeguatamente sottolineato è che questa squadra ha cambiato tanto, tantissimo, ha cambiato il modulo di gioco. Siamo a metà settembre, è in testa alla classifica. È vero che c'è il calendario più semplice rispetto alla Juventus, però di solito ci sono periodi di transizione che sono molto più lunghi di quello che sta vivendo il Napoli. Beh sì, direi di sì, insomma, sono stati bravi a capire subito quali erano i concetti e qual era la filosofia di Benitez e ad abituarsi a passare anche a un altro sistema di gioco, e quindi lo hanno fatto in fretta. È vero quello che diceva lei, che probabilmente il calendario gli può aver dato anche una mano, perché magari non ha avuto scontri con squadre del suo stesso target, però sono convinto che il Napoli ha le potenzialità e le credenziali per poter fare un campionato di veramente di grande grande livello, come è stato negli anni scorsi, ripeto, perché in questi primi due mesi secondo me è stato giustamente sottolineato il lavoro di Benitez, che è stato un lavoro ottimo, però non dimentichiamoci che il lavoro di Mazzarri è stato altrettanto ottimo. Lei comunque continua a vedere la Juventus un'incollatura davanti in questa ideale griglia, oramai non più di partenza. Sì, secondo me la Juventus è ancora un gradino sopra le altre. È chiaro che quest'anno forse questo gradino può essersi leggermente rimpicciolito, però è sempre la Juventus, secondo me, la squadra più forte, perché comunque ha mantenuto in questi tre anni il grosso della rosa. Ogni anno mette dentro dei pezzi di un certo tipo, ha un allenatore molto bravo e quindi ancora la vedo superiore, però chiaramente dovrà giocarsela. Che in Italia non c'è niente di facile. Certo, per chiudere con l'Antuono, leggo la coda della classifica: sì. Parma, Chievo, Sampdoria 1 punto, Sassuolo, Catania, Genoa 0, Atalanta di punti ne ha 3, c'è qualcuno che ha ancora una partita in meno, c'è il derby di Marassi, ad esempio questa sera, il Parma deve giocare domani con la Roma. Ho l'impressione però che quest'anno per chi deve salvarsi la quota sarà bassa, perché mi sembra che le grandi o presunte tali lasciano poco per strada e abbiano iniziato a farlo da subito. Beh, diciamo che il trend di questo inizio di campionato è stato questo, però poi andando avanti ci saranno le squadre impegnate con competizioni europee, come accadrà questa settimana, per cui sicuramente credo che si tornerà come al solito in Italia poi a girare sempre, parlo della quota salvezza, sempre intorno ai 40 sempre punti, intorno ai famosi 40 sì, punti. Poi io direi che l'obiettivo da fissare è 40, poi possono diventare 38 piuttosto che 36, 37 oppure 41, ma comunque la soglia è quella. Grazie a Stefano Colantuono. Grazie a voi. Grazie a Stefano Colantuono, atteso domenica dalla partita contro la Fiorentina, Atalanta-Fiorentina. Fiorentina, do anche un paio di aggiornamenti, che certamente si presenterà senza Pizarro espulso, ma anche senza Mario Gomez. Domani esami più approfonditi, ma per lui distorsione al ginocchio con interessamento del legamento collaterale e quindi uno stop che in questo momento è valutabile fra i 2 e 3 mesi. E poi non ci sarà nemmeno Cuadrado, che si è fatto male alla spalla, lussazione alla clavicola. Si parla di uno stop superiore al mese, 5 settimane almeno. Queste per la Fiorentina sono 2 tegole difficili da digerire. 800 24 00 24, ci sono diversi amici che ci hanno raggiunto. Prima però vi voglio far sentire Ventura di ieri sera. Noi avevamo il cambio pronto da diversi minuti, perché era diversi minuti che era a terra la Rondo, quindi una volta che esce la palla, uno, credo che avevamo il diritto di fare il cambio. Due, se per caso non vuoi fare il cambio, devi comunque accertarti come mai un giocatore 4 minuti che è a terra. Quindi vuol dire, non puoi riprendere il gioco con un giocatore che è fermo da 4 minuti steso per terra, che poi ha anche una frattura. Credo che sia difficile da accettare sia la situazione sia la non vittoria, che credo che mai come questa sera il Torino avrebbe meritato. E questo è Ventura di ieri sera. Romano da Milano, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Prego. Allora, io volevo solamente cercare proprio di smentire questa cosa del parallelo con Bergamo, Atalanta-Milan di tanti anni fa. Sì, 1990. Sì, ecco, non c'entra proprio niente. Io se non ricordo male, ma non ricordo male, lì erano ultimi minuti, Atalanta era praticamente qualificata, un giocatore del Milan per terra, i giocatori dell'Atalanta buttano fuori la palla per consentire i soccorsi al giocatore del Milan, il Milan prende la palla, rimette la palla in gioco e se ne frega del fatto che... Sì, che la difesa è ferma, poi c'è Massaro che va giù, c'è calcio di rigore, Baresi che lo tira dentro. Esatto. Sacchi tanti anni dopo ha detto che si è pentito di non aver dato allora l'ordine a Baresi di calciare fuori quel tiro di rigore, cose che probabilmente non si possono nemmeno fare. Il parallelo io credo sia improprio, però l'hanno fatto in tanti, Romano. Malissimo, per me non va fatto, perché in quel caso, devo dire, sono milanista, in quel caso effettivamente non eravamo difendibili, cioè le immagini parlavano quasi chiarissimo, ma in questo caso invece no, in questo caso d'accordo, avremmo dovuto fare, avremmo dovuto attendere tutto quanto, ma io dico di no, perché si sta perdendo una partita a Torino, i giocatori, c'è l'adrenalina, l'allenatore stesso ha ammesso, gli ho detto io di rimettere la palla in gioco e io gli do ragione, no, in questo caso secondo me il Milan non c'entra niente, la colpa è dell'arbitro, del quarto uomo, del guardalini, di chi non ha fermato e non ha consentito la sostituzione. E finisco dicendo che io ho fatto più di 20 anni di tessera, quante squadre ho visto io a San Siro che erano sempre per terra i giocatori, minuti e minuti persi, 6 sostituzioni. Sì, non è il caso di ieri, Romano, perché 4 minuti di recupero. La Rondo aveva un piede fratturato, non è il caso di ieri, questo per completezza di informazione. Però lei ha ragione, in tanti si difendono negli ultimi minuti semplicemente impedendo alla squadra che sta cercando di rimontare o la squadra più forte in quel momento sul campo di giocare, ed è una cosa che fa male allo spettacolo, fa male al calcio, andrebbe stroncata. Ha ragione, io lo ripeto, l'anello debole della scena di ieri è l'atteggiamento del quarto uomo, sbagliato, posso dire un po' accondiscendente, perché la partita andava fermata da loro. Il Milan ha semplicemente fatto il suo lavoro. Grazie Romano. Giuseppe da Napoli, 800 24 00 24. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, proprio a riguardo del Milan che ha parlato poco fa il tifoso. Sì. Volevo dire, ma se non era il Milan ieri sera a Torino, sì, e gli arbitri avrebbero interrotto il gioco. Qualche sospetto c'è, ma non solo per il Milan, credo che la sudditanza, e con questo rispondo anche a qualcuno che ha scritto al 349-238-6666, non è un'invenzione per Milan e Juventus, la sudditanza esiste dagli anni 60, è ciclica, Giuseppe, se ne è parlato anche per il Napoli degli anni 80, quello di Maradona che vinceva, o no? Ma questa del Milan è una cosa che vediamo da anni, e si ripete sempre la stessa cosa. Perché sì, io sono convinto che ieri, a parte che io ho perso 2000 euro perché ci avevo la vittoria del Torino, giusto? Quindi ha vissuto un brutto quarto d'ora. E non fa niente, perché io sono un operaio e magari quei 2000 euro mi avrebbero fatto comodo. Non andiamo, però voglio dire, proprio a livello di credibilità del calcio, se non era il Milan ieri sera, io sono convinto al 100% che avrebbero interrotto il gioco, avrebbero fatto fare il cambio e non avrebbe pareggiato l'altra squadra. Il sospetto c'è, Giuseppe, ma non è solo il discorso legato al Milan, lo dico per chiarezza. Grazie comunque. Saverio da Como, buon pomeriggio, anzi buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io telefono, allora voglio premettere intanto che non sono né una persona emotivamente coinvolta nella partita di ieri, perché non tipo né Inter né Juve. Sì. E ne sono uno appassionato di Mourinho, anzi trovo una cosa noiosissima parlare di arbitri, sì, per più quando gioca la mia squadra non mi interessa. Annoia il discorso, però a me interessa zero. Facciamo cronaca. Sì, no, capisco come solo in Italia si parli di queste cose. Perché no, questo non è vero, Saverio. Guarda, io ho vissuto all'estero e sinceramente trasmissioni di Moviola alla radio addirittura, robe mai sentite. Sì, però Saverio, all'estero Ferguson per 25 anni è stato il terrore degli arbitri e ha duellato con Wenger, con gli altri allenatori a turno sulla questione arbitrale. Le risparmio che cosa succede in Spagna tra Real Madrid e Barcellona, dove ci sono giornali pieni di Moviola parole sulla gara dell'altro per scovare il minimo fischio a favore. Succede anche oggi, dopo il 3-2 del Barcellona di ieri. Però prego Saverio, certamente noi non ci facciamo mancare niente, prego. Sì, in Inghilterra dico lo faranno rivedere una volta, due volte un episodio, ma non succede mai di vedere lo stesso episodio 50 volte la domenica, lunedì, martedì. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, io volevo fare proprio una questione di metodo, perché ero prima in macchina, adesso non sono più all'ascolto, però ho sentito la sua affermazione dire ma l'interpretazione migliore sarà quella di Conte, che ha detto sì, il secondo fallo lo perdoniamo, il terzo lo tiro... Cioè, per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no, non capisco come lei possa... Però Saverio, forse non mi sono spiegato. Conte, secondo me, è stato lucidissimo e ha detto il primo giallo Alex Steiner poteva starci, forse fiscale, il secondo poteva starci, forse fiscale, la somma dei due fa che difficilmente un arbitro ti butta fuori per due falli di quel genere. Siccome sono stato calciatore, so che giustamente i giocatori dell'Inter spingevano per chiedere il cartellino rosso, ho capito anche che difficilmente il direttore di gara avrebbe perdonato Lichtsteiner un'altra volta e quindi avrebbe fatto la somma. Tre falli così, un po' da giallo, sarebbero diventati due gialli e un rosso. Mi è sembrata una lettura abbastanza lucida, è diverso da quello che è successo un anno fa a Torino, là il secondo fallo di Lichtsteiner era un fallo quasi da cartellino rosso diretto. Ha capito qual è il senso delle parole di Conte e anche del mio pensiero? Sto parlando senza averli neanche visti i due falli, perché anzi questo forse rafforza ancora più il mio discorso, perché quello che voglio dire io è, se due falli sono da ammonizione in qualsiasi momento, a qualsiasi distanza. Sì, erano due giallini, Ci sono delle regole, voglio dire, sì. Dopodiché si parla di Juve e quindi vabbè, il secondo non lo diamo, aspettiamo eventualmente un terzo. No, ecco, ma non è successo questo. Questo per me è insopportabile. Non è successo questo, secondo me ieri non è successo niente di particolare con Lichtsteiner. Ripeto, stiamo parlando di una cosa diversa rispetto a un anno fa, là a Torino Lichtsteiner andava espulso e fu graziato e Conte lo tolse dopo 10 secondi perché aveva capito tutto. Beppe da Milano, buonasera. Io ho ascoltato, volevo intervenire su Torino. Voi dica. Avete subito tolto e deresponsabilizzato l'allenatore del Milan, sì, che ha avuto un comportamento antisportivo, Allegri, diseducante per tutti i giovani. Un giocatore per terra con il piede rotto, un allenatore che peraltro ha già avuto qualche precedente che è andato in prescrizione come quello del suo presidente, avrebbe quantomeno detto al suo giocatore di aspettare. Questo è mancanza assoluta di buon stile, di etica e di educazione sportiva. Il risultato conta poco, perché il Milan di ieri può fare altri pareggi rubati così, ma non va da nessun'altra parte. Oh, insomma, io su questo ho qualche dubbio. Allegri un anno fa, dopo 8 partite, era un allenatore licenziato e penultimo in classifica, è arrivato terzo. Gli arbitri. Ricordi l'Udinese, ricordi la partita di Torino, la ricordiamo tanto. Sì, però Beppe, va bene, l'anno scorso mi faccio amici quelli del Milan, c'è stato certamente qualche episodio che ha dato una mano al Milan nella rimonta, però mi sembra ingeneroso non sottolineare anche che c'è stato il lavoro di Allegri che ha rimesso in piedi una squadra che era stata devastata dal mercato. Prego, però, poi andiamo in pubblicità. Beppe. Pronto? Sì, dica. Io Allegri non lo giudico come allenatore, lo giudico come uomo di sport. Non le è piaciuto. E va condannato, perché il Milan è una squadra che è la seconda volta che si fa beccare in condizioni di antisportività. Nella prima non c'era Allegri, almeno questo diamoglielo come alibi, c'era Arrigo Sacchi. Prego, dai, che poi andiamo in pubblicità. È un delinquente, quindi. Beh, non esageriamo, su. Ma poi non esageriamo. Non esageriamo, Arrigo Sacchi un delinquente. Ah, sta parlando di, va bene. Senta Beppe, però io sono in pubblicità, mi aspetti lì che la richiamo subito dopo, pubblicità. Go! Real Madrid, lo hizo el hombre más caro del mundo, lo hizo Gareth Bale. Tutti convocati. 800 24 00 24, scrive un amico via SMS, con Balotelli in ogni partita un paio di rigori da tirare, guarda caso, non esageriamo. E poi ancora un altro chiede perché nel calcio si continua a non inserire il tempo effettivo come nella maggior parte degli altri sport. Perché credo snaturerebbe lo spirito stesso del gioco. Ho l'impressione che fra tante novità che verranno ancora introdotte La prossima secondo me potrebbe essere il time out per tempo, già quest'estate con la scusa della temperatura l'abbiamo vista anche in manifestazioni ufficiali come la Supercoppa di Francia, però credo che il tempo effettivo, fortunatamente dico, sia ancora lontano. Beppe da Milano, chiudiamo il discorso. Ci starebbe bene però. Ci starebbe bene, ma a me... L'extra time ci starebbe bene, perché se no è una cosa... Sì, ma di fatto c'è già nell'extra time. Beppe, dai, ma... che poi passiamo agli altri che hanno chiamato. Prego. L'ultima cosa questa. Quando ci sono sei che sono in campo, che fanno gli arbitri, perché le sei fanno gli arbitri, sarebbe minimo la consultazione fra i sei, che non avviene. E per questo è il sistema che non funziona. In un paese nel quale la classe arbitrale, a differenza di Spagna e Inghilterra, è già finita sotto inchiesta più volte, e dà ragione, rispetto alle interferenze delle grandi squadre. Mm. Sì, Beppe, però, e la ringrazio, torniamo sempre lì, la sudditanza esiste, però non esagererei nemmeno, tra l'altro io non trovo nemmeno che ci siano delle telefonate con offese personali gratuite o insolenze, ognuno la pensa come vuole, io vi ho detto come la penso. Simone da Verona, buon pomeriggio, buonasera anzi. Buonasera a voi. Prego. Volevo parlare del Milan. Sì. Noto che la squadra sia in pesante difficoltà, dato che l'anno scorso la Champions League si è conquistata con un episodio dubbio. Sì. Ieri sera ugualmente si è conquistato un rigore, può essere sacrosanto quello che si vuole, però... Sì, sul rigore non, sul rigore non discutiamo per cortesia, Simone, perché sennò no, a me si sta parlando del nulla. No, non parlo solamente del rigore, parlo del tempo di recupero, cioè quando si arrivano a tempi di recupero di 7-8 minuti, guarda caso sempre quando c'è una squadra grande in difficoltà. Sì, guardi, in realtà oggi ci sono stati 5-6 minuti di recupero quasi su tutti i campi, credo che anche questa sia un'indicazione. Prego Simone. Però a mio avviso questo ha dato molto stupore del fatto che il Milan sia una squadra in difficoltà, che abbia voluto comprare Kakà, non so se per fare un favore ai tifosi, però il Kakà visto col Torino, a mio avviso, rischia di togliere spazio ai Sharawi o a quanti altri sono molto più forti di Kakà, e il Milan non ha bisogno di un giocatore del genere. Ormai dispiace dirlo, ma Kakà è un giocatore finito, se in 4 anni a Madrid non ha fatto nulla, un giocatore diciamo tra virgolette si arrugginisce, e togliere la ruggine di osso è molto faticoso, e quindi anche per il Milan sarà molto faticoso recuperare un Kakà che ha comunque 4 anni in più di quelli che aveva prima, e ormai è un giocatore sul viale del tramonto. Sì, anch'io ho avuto questa impressione, Simone. Rispondo a un amico che ha scritto via SMS al 349-238-6666. Se consideriamo, così come per Valentino Rossi, questa una stagione di transizione anche per Kakà, rispondo: non una stagione, io do un mese di tempo a Kakà per vedere se ritrova un po' di smalto e di brillantezza fisica. I dubbi ci sono. Poi tra un mesetto proviamo a cominciare a tirare le conclusioni. Grazie Simone, saluto Davide Valsecchi. Ciao Davide. Ciao, buonasera. Campione del mondo GP2 nel 2012, ma soprattutto, ed è il motivo per cui l'abbiamo convocato, terzo pilota della Lotus, compagno attuale di Kimi Raikkonen, che notizia di questa settimana, l'anno prossimo sarà invece compagno di Alonso. Io prevedo scintille, tu che Kimi lo conosci bene, cosa scommetti su questa convivenza in Ferrari? Scommetto che la Ferrari l'anno prossimo parte favorita per il titolo, perché una coppia di piloti così, a dire la verità quest'anno Raikkonen è stato uno dei migliori piloti al mondo, come ha dimostrato di essere l'anno scorso, e lui e Alonso faranno sicuramente una coppia incredibile. Sul fatto della loro convivenza, Raikkonen è l'osso duro, perché in questi 2 anni del suo ritorno ha dimostrato di essere costantissimo e di fare sempre risultato in gara, di avere un passo in gara incredibile, perciò se c'è un pilota al mondo che può mettere in difficoltà Alonso, a parte Vettel, penso che quel pilota sia proprio Raikkonen, perciò non sarà così scontato per Alonso battere Raikkonen agilmente, però questo sicuramente sarà di vantaggio alla Ferrari, che avrà 2 piloti fortissimi e sicuramente partirà favorita per il campionato e per il campionato costruttori. Sì, lo ritiene ancora un pilota da titolo, insomma, non vorrei essere nei box della Ferrari nei primi 4-5 Gran Premi della stagione, quelli che da un certo punto di vista stabiliscono le gerarchie. Sì, no, non sarà semplicissimo dire la verità, ma Ho la sensazione che la Ferrari abbia fatto la scelta giusta personalmente, perché io vedendola da sportivo e da pilota penso che uno dei team più forti al mondo, forse il team più rinomato del mondo come la Ferrari, deve avere i piloti migliori. Visto che uno tra i piloti migliori è Vettel, ma non si può avere perché è sotto contratto con la Red Bull, c'è la Ribeiro Raikkonen, secondo me ha fatto la scelta giusta. Sul fatto di chi sarà la prima guida non sarà semplice. Io dico che l'anno prossimo la Ferrari punterà a lasciare i propri piloti liberi di agire e poi solo sul finale si vedrà chi è davanti o chi è dietro, perché stento a credere che Raikkonen si sposti per far passare Alonso o Alonso si sposti per far vincere una gara a Raikkonen. Sì, difficile, difficilissimo anche solo immaginarlo. Com'è con i compagni di squadra? Com'è Raikkonen, quello che noi non conosciamo, anche perché poi è uno che parla poco, si fa conoscere poco? Sì, Raikkonen è un bravo ragazzo, utilizza questo suo modo di fare per tentare di rendere meglio in pista. Secondo me lui è amico di chi nel team può aiutarlo a far andare più forte. Tutti gli altri, tipo gente del marketing o catering o comunicazione, non ha un gran rapporto. Lui ha un rapporto con i suoi meccanici e ingegneri. Con il secondo pilota, io a dire la verità, in tutta la stagione ho visto Raikkonen che parlava con Grosjean forse due volte e gli ha risposto sì o no, comunque a monosillabi. Perciò non è che, a dire la verità, hanno un grandissimo rapporto quest'anno tra i compagni di team in Lotus. E Raikkonen è più un tipo che si fa i fatti suoi, lavora con i suoi ingegneri, tenta di far andare bene la macchina, poi è un gran pilota in pista, ma con il suo compagno di squadra non ha un rapporto quasi nullo in questo momento in Lotus. Poi con Alonso non so. Ci spieghi quella foto, chi mi ha tradito, il messaggio della Lotus d'addio, i due conigli fotografati impegnati in un amplesso, perché? Cioè, davvero vi siete sentiti traditi? No, non lo so, a dire la verità, sai, il team ha veramente fatto di tutto per far sì che lui rimanesse. Raikkonen, bisogna ricordare che ha portato il team Lotus al quarto posto costruttori l'anno scorso, siamo tuttori quarti nel campionato costruttori quest'anno, perciò un sacco di introiti anche economici alla fine dell'anno. Ha fatto vincere al team una gara quest'anno, una gara l'anno scorso, perciò ha portato il team Lotus a un grande splendore e tutti volevano nel team trattenerlo, gli hanno fatto proposte economiche importanti per l'anno prossimo, ma Raikkonen aveva sempre parlato che si trovava benissimo da noi perché aveva la libertà di agire, la libertà di fare un po' quello che voleva, cioè pensare solo alle gare e fregarsene di tutto il resto. Il primo giorno in Ferrari ha dichiarato che è ritornato al suo vecchio amore e il mio team, che sono anche inglesi, perciò un carattere un po' particolare, non l'hanno preso benissimo. No, direi di no. Sono stati quasi volgari. Direi di no. Grazie Davide. Un piacere, arrivederci, grazie. Kimi Raikkonen su Ferrari vince il titolo iridato 2007. Massa è secondo, grande doppietta, arrivo in parata per la Ferrari, bandiera al vento, la torsida, e vedete che Alonso applaude, sembrava un sogno e invece si è realizzato. Le voci del titolo mondiale di Kimi Raikkonen 2007, l'ultimo titolo di una Ferrari, titolo piloti. Kimi Raikkonen, ci divertiremo credo da marzo, ci divertiremo anche settimana prossima dalla Slovenia, europei di basket. Io saluto e ringrazio Danilo Gallinari, ciao Danilo, buonasera. È caduta la linea. Allora andiamo a proposito di messaggi che arrivano da casa, intanto che recuperiamo la linea con Danilo Gallinari. C'è chi parla di tempo effettivo, webcam sulla testa dei calciatori, moviola su grande schermo, troppe cose possiamo anche fare, scrive Marina da Milano, un referendum sul territorio nazionale per stabilire se il risultato è giusto, ma si può fare di tutto. E poi c'è Ezio D'Adesio che precisa il recupero di Torino-Milan era di 4 giorni, basta dire di 4 minuti, basta dire falsità, è vero, i minuti erano 4, sono diventati 6 perché poi il tempo si è fermato. Abbiamo recuperato Danilo Gallinari, ciao Danilo, buonasera. Ciao, buonasera. Ci divertiamo dalla Slovenia, anche se sono arrivate le prime due sconfitte. Mi sembra di aver letto e sottoscrivo dalla prima all'ultima riga che la buona sorte di ieri, cioè questa qualificazione consegnataci dalla vittoria della Slovenia contro la Grecia, ce la siamo meritata tutta per come siamo arrivati in Slovenia e per come stiamo giocando. Beh, direi di sì, insomma, penso che quando si raggiungono poi dei bei risultati ci vuole anche un po' di fortuna. Noi secondo me siamo stati molto bravi nel girone e quindi siamo meritati secondo me questa qualificazione. Hai sentito i tuoi compagni in queste ore? Sì, sì, sì, li ho sentiti e sono chiaramente tutti molto molto contenti, carichi e quindi insomma avanti tutto. C'è euforia, c'è consapevolezza di provare ad andare oltre, questo è forse ragionando sulle previsioni della vigilia il risultato massimo che potevamo ottenere visto come si è partiti. Adesso dove è puntato il mirino? Ma non ci sono, penso, il più in alto possibile, gli obiettivi adesso che siamo lì ce la giochiamo e quindi insomma penso che lo sguardo sia molto avanti. Ma esiste la possibilità di arrivare sul podio? Manca da 10 anni, del resto anche i quarti di finale mancavano da 10 anni, dalla Svezia nel 2003. Oggi si può sperare o stiamo sognando? No, secondo me non bisogna farsi né obiettivi né guardare troppo avanti, bisogna prendere partita per partita, poi sai, tante cose possono girare bene dal verso giusto e chissà mai cosa può succedere, però bisogna prendere veramente partita per partita, minuto per minuto. Hai visto squadre che sono certamente assolutamente superiori all'Italia in questa prima settimana di europeo? Ma per adesso no. Per adesso no, perché tutte le squadre hanno avuto dei momenti di alti e bassi, e quindi per quello che dico che ci si può succedere di tutto. Anche se noi abbiamo dei limiti strutturali, li abbiamo pagati mi sembra per la prima volta contro la Slovenia e ancora ieri contro la Croazia, sono limiti di stazza, di centimetri, sono limiti che vengono da quella lunga catena di infortuni che ha caratterizzato la nostra preparazione, su quello io credo sia difficile poter migliorare nei prossimi 10 giorni, semplicemente non ci siete, tu, Bargnani, gli altri, bisogna essere perfetti per 40 minuti per vincere. Sì, sì, bisogna fare delle partite perfette, sfruttare a nostro favore magari qualche centimetro in meno e chilo che abbiamo in meno e sperare di metterla sempre dentro. C'è un po' di rimpianto di non essere lì, quanto vale questa squadra con te e tutti gli altri che non ci sono? Ma secondo me è una squadra che vale tanto, che vale il podio, ma non dobbiamo pensare insomma a queste assenze, anche perché abbiamo dimostrato di poter far bene nonostante le assenze, quindi non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, quindi insomma speriamo in bene, dai. Hai la speranza che i compagni ti consegnino la qualificazione ai mondiali? Anche quella manca davvero da una vita al basket italiano. Ma sarebbe un sogno, quindi insomma come tutti i sogni bisogna rincorrerli e crederci sempre. Sarebbe bello potersi poi misurare con i migliori. Grazie a Danilo Gallinari. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Danilo, ci fermiamo, c'è il traffico. 800 24 0024, traffico. Tutti convocati. Io mi porto avanti col lavoro, intanto ringrazio Giorgio De Luca, autore anima di questa puntata, Filippo Aurigi e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. 800 24 0024, Luca da Como, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Prego. Allora, io ho arbitrato in Serie A e B per 4 anni più o meno, senza più o meno, dal 2005 al 2009. Ci puoi raccontare del tuo cognome? Che così... Sì, sono Luca Marelli da Como. Ok, prego. Ex arbitro, chiaramente, perché se no potrei parlare alla radio. E volevo puntualizzare alcuni particolari di quello che si è discusso oggi. Parliamo di Torino-Milan. Sì, esatto. Perché ho sentito tante interpretazioni, la maggior parte sono fantasiose. E il problema è proprio questo, è un problema di comunicazione, perché non si sa esattamente cosa è successo. Bisognerebbe analizzare, ci vorrebbe un po' di tempo, bisognerebbe analizzare tutte le immagini. Vogliamo partire dal fatto che Massa ha sbagliato nel non far soccorrere l'Arrondo che si era fratturato? Sì. Partiamo da questo. Che è uno, dei cavalli di Ventura, lo abbiamo sentito. Assolutamente, assolutamente. Il fatto è questo, che le disposizioni sono molto chiare. Il gioco va interrotto e si è obbligati a interromperlo nel caso in cui sia coinvolto la testa dei giocatori. Non quando ci sia un pericolo imminente. una possibilità, sì, di non pericolo, un problema al piede. Esattamente. Chiaramente Massa non può sapere che si è fratturato un piede, può pensare di tutto, può anche averlo non visto, perché è lontanissimo. E per quanto riguarda la sostituzione, vedendo le immagini, si nota che il quarto uomo, il quarto ufficiale, chiamiamolo col loro nome, sì, che il quarto ufficiale, nel momento stesso in cui McSess sta per rimettere la palla, cioè si tratta di decimi, sì, sta portando una mano davanti alla pancia. E dire, perché, per quale motivo fa questo? Semplicemente perché la comunicazione tra il quarto ufficiale e l'arbitro non è diretta come tra gli assistenti. Sta accendendo la radiolina, traduciamolo in italiano. Sta schiacciando un bottone che aziona il contatto per farsi sentire dall'arbitro. Nel momento in cui schiaccia il bottone gli dice Davide, cambio. Ma nel momento stesso in cui sta schiacciando il bottone, McSess riprende la palla, riprende il gioco. Tutto qua. Che poi abbia sbagliato a gestire la situazione, io posso essere d'accordo. Sì, non è stata straordinaria, ma noi l'abbiamo detto, è l'anello debole, lì certamente, insomma, se Torino ha qualcosa da lamentarsi, non ha tutti i torti, poi noi allontaniamo ogni dietrologia, esatto. Però qualcosa non ha funzionato, va bene, l'Arrondo stava lì da un paio di minuti, però quella sostituzione poteva essere concessa. Luca Marelli da Como, grazie per essere intervenuto, siamo quasi in chiusura. Luca da Venezia, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Niente, sempre su Torino-Milan, sì. Secondo me l'errore non c'è da parte di nessuno, c'è solo un poco di rispetto tra loro, tra i giocatori, perché in un qualsiasi altro sport, se vedi un avversario per terra, perlomeno vai a vedere cos'ha, e se ti accorgi che è veramente male, chiami l'azione dei colleghi, buttino fuori la palla per farlo soccorrere. Sì, invece nel calcio mi sembra che ci sia poco o niente. Sì, sì, sì Luca, ha ragione, però ha ragione anche chi scrive, e lo fa in questo momento al 349-238-6666, c'è anche chi ha speculato troppe volte, e questo alla fine ha tolto credibilità anche a chi precipita a terra, soprattutto nei minuti finali. Abbiamo meno di un minuto. Stefano da Torino, buonasera. Sì, buonasera a voi. Rapido, senta, prego. Volevo intervenire sul tema di Colantuono, sì. un pochino precedente, comunque sul divario tra le squadre, diciamo così, di testa e le altre. Io non lo vedo così tanto, io permetto, sono della Juventus, sì, quindi forse sono di parte, io non lo vedo così accentuato il divario. Io sono abbastanza un appassionato di calcio e quindi noto anche, guardo anche i campionati esteri. E sì, io succede anche altrove. Sì, però più che altro il gap lo trovo tra il campionato italiano e i campionati esteri, e questo è veramente preoccupante per quanto riguarda la Champions League. Adesso non c'è dubbio, vedremo a partire da questa settimana. Grazie Stefano. Noi siamo in chiusura, l'appuntamento con tutti i convocati domani con me, Giovanni Capuano, a partire dalle ore 14. Ancora un ringraziamento a Giorgio De Luca, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato. 20:45, il derby di Marassi, Genova per voi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Milanetto, Boselli trattenuto, Boselli si gira, sinistra di Boselli! Boselli! Il Genova in vantaggio! Incredibile! 92esimo! Boselli, incredibile! Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza, rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Un rimpallo favorisce Cassano, grande giocata. Genova, Cassano, attenzione, mette dentro Maggio, Rubigno, Maggio, e c'è gol! La Sampdoria passa Maggio al 42esimo, 1-0, Maggio dentro.